Europa 24. Stop alle divisioni fra le capitali europee sull'Ucraina è il senso dell'appello lanciato dal premier polacco Donald Tusk al termine dell'incontro con il presidente della Commissione europea José Manuel Barroso, chiesto per discutere della situazione nel paese vicino. È della massima importanza che ci sia una posizione comune di tutti gli stati membri e delle istituzioni europee, ha detto Tusk. Immigrazione è un tema sempre al centro dell'attenzione delle politiche europee. L'arrivo di migranti può rappresentare un'opportunità, ne è convinta il commissario europeo Cecilia Malmström. Non solo un problema, ma soprattutto un'opportunità. È il punto di vista sui migranti espresso dal commissario per gli affari interni Cecilia Malmström. I think we should see migrants as an opportunity. First of all, we have a moral obligation to receive those who run away from the war in Syria. Dovremmo vedere la questione, dice Malmström, della migrazione come un'opportunità. Abbiamo prima di tutto un obbligo morale nel dare asilo a chi scappa da una situazione di conflitto, come per esempio per la popolazione della Siria. I migranti, continua il commissario per gli affari interni, portano poi nuova energia nei nostri paesi, nuove idee, differenze culturali importanti, portano innovazione, diversità. Poi, considerata la difficoltà demografica dei nostri paesi, portano anche forza lavoro. Intanto l'eurodeputato Salvatore Iacolino è convinto che serva una guida mediterranea per l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione internazionale alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione. Le procedure, ha detto, si definiranno entro il prossimo giugno. L'Italia si è assunta impegni significativi in materia di pattugliamento, soccorso e tutela delle frontiere che condividiamo con il resto dell'Europa e che l'Europa deve riconoscerci in modo tangibile. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La ripresa è fragile, dobbiamo proseguire il consolidamento delle finanze pubbliche e mantenere lo slancio per gli investimenti. Lo ha detto il commissario agli affari economici Olli Rehn parlando al Comitato delle Regioni. Per Rehn dobbiamo proseguire gli sforzi per far ripartire il motore di crescita e occupazione, quindi sfruttare tutto il potenziale crescita. La Commissione europea è pronta già da lunedì ad avviare le pratiche per la procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per la mancata applicazione della direttiva sui ritardi dei pagamenti della pubblica amministrazione. Lo ha annunciato il vicepresidente della Commissione europea, Antonio Tajani. Ed è a Bruxelles il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che fra pochi minuti incontrerà il commissario europeo per le politiche regionali, Johannes Hahn. Scopo del viaggio è illustrare come intende spendere il Lazio i fondi europei, definiti da Zingaretti l'unica cassaforte per riaccendere i motori dello sviluppo regionale. Non è esattamente una bella notizia, purtroppo quella frase è in un contesto del racconto della catastrofe economica e finanziaria dei debiti che abbiamo trovato in quella regione, 12 miliardi di euro di debiti commerciali e 10 finanziari. Abbiamo iniziato una poderosa opera di risanamento che sta andando bene, ma è oggettivo che le risorse per lo sviluppo saranno quasi esclusivamente quelle che riusciremo a investire bene e provengono dalle risorse europee. Ecco, di quanti soldi stiamo parlando e quali sono appunto i campi in cui impiegare bene, come diceva, queste risorse? Circa 3 miliardi e 500 milioni di euro che noi investiremo, ovviamente partendo dall'indicazione della nuova programmazione, sul sviluppo, su filiere di sviluppo come l'innovazione tecnologica, l'innovazione digitale, l'integrazione sociosanitaria, le infrastrutture materiali e immateriali. Nell'incontro di oggi con il commissario Hahn si aspetta anche una bacchettata come italiano per come sono stati utilizzati i fondi malamente finora? Non so se bacchettate, sicuramente preoccupazione sì. La Commissione europea fa sapere che scende del 4% il numero delle monete di euro contraffatte rimosse dalla circolazione nel 2013. L'anno scorso le autorità nazionali nella zona euro hanno ritirato 175.900 monete false. Si calcola che vi sia un euro falso ogni 100.000 veri. È la moneta da 2 euro ad essere la più contraffatta. È tutto, un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.